fermo sta piano a Firenze, si tocca sul patto e una matita trafigge il suo torace sottovoce. Il cuore è il solco e tu mi hai ucciso a graffi e fonti colorati a mano. Romantico uguale a strappo, non smette di scriverlo sulle tazzine del Baradoni Posca. E addio mio buon vecchio caffè d'orzo. Romantico stecca di vaniglia e senti nei polmoni da tipo 20 anni, come da anni in viso ho la sera di un lilla un po' brutto. Due tagliole, le tue labbra che non si baciano, i tramonti inoltrati. Romantico con pochi tagli di nero e di notte sulle ginocchia. Siamo solo l'adolescenza e si disegna in volto una barba incolta. Ritaglia modelle dagli 80 dalle riviste fluo. Francis Bacon canta malissimo i Talking Heads sui lampadari e dorme sugli scivoli e ride mentre ti dice un po' distrutto. Se quando mi baci ti dovresti fare male. Se tu mi baci in teoria mi dovresti fare male. Quando mi baci mi dovresti fare male. Se tu mi baci in teoria ti dovresti fare male. Romantico raccoglie per dare i cognomi delle studentesse come profitero. In galleria Lafayette, pensierose in acquari di film splatter, ma tuttavia le mie tenebre sono stelle filanti, un tristissimo arrivederci, ma sexy la mia maglietta di Gaetano Bresci.